Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Un'altra puntata utile e imprescindibile, quella odierna, per timbrare il vostro primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, consentendovi di varcare la soglia di un mondo di opportunità all'estero. Puntata questa che ci terrà ben ancorati all'Europa, saremo quindi un po' meno esotici per una settimana e di conseguenza anche le indicazioni che vi forniremo saranno, diciamo pure, più abbordabili. Menù di oggi: fare ricerca in Gran Bretagna con la testimone della settimana, come andare a lavorare nelle istituzioni europee all'interno di Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi settimanale ideata per fornirvi tante dritte utili. E poi ancora le offerte più calde del momento nel mondo con Face for Job, fino a chiudere in bellezza con una serie di consigli pratici per trasferirsi a Vienna all'interno di Internet Point. Il treno di Generazione Mobile è dunque in partenza, salite a bordo e lanciatevi con noi nell'esplorazione delle immense opportunità offerte da questo piccolo mondo interconnesso. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana è dedicato agli studenti universitari in partenza col programma Erasmus. Secondo una ricerca Uniplaces, sono Budapest, Praga, Porto, Varsavia e Lisbona le città universitarie più economiche. Qui si spendono meno di 500 euro al mese. Londra, Parigi e Monaco di Baviera invece le più costose. E una segnalazione: in programma oggi e domani all'Unicredit Pavilion di Milano la 13ª edizione del Festival delle Lettere, la più grande manifestazione italiana che celebra la scrittura epistolare. Il tema di questa edizione è, fate bene attenzione, Lettera a un cervello in fuga. Toolbox. Toolbox questa settimana inaugura un nuovo filone di strumenti utili per facilitarvi nella vostra futura carriera all'estero. Carriera a forti connotati europei stavolta. In collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano ospitiamo Barbara Forni, che nella prima di una serie di tre pillole informative ci spiegherà come andare a lavorare in Europa. Cominciamo oggi parlando delle opportunità di carriera all'interno delle stesse istituzioni europee. Buongiorno Barbara Forni. Buongiorno a voi radioascoltatori, è un piacere essere qui per raccontarvi un po' del nostro mondo delle istituzioni europee. Allora Barbara, iniziamo subito a livello generale parlando delle opportunità di carriera all'interno delle istituzioni europee. Quali sono? Le opportunità di carriera e quindi il mondo delle assunzioni nelle istituzioni comunitarie sono gestite innanzitutto centralmente da un ufficio preposto, che è l'Ufficio Europeo per la Selezione del Personale, e si chiama proprio EPSO, ha un sito internet dedicato e quindi le procedure avvengono solamente tramite un concorso pubblico. Ovviamente ci sono varie tipologie di concorso che corrispondono a quelle che sono le diverse categorie di personale che possono entrare appunto nelle istituzioni europee. E qui andiamo a vedere quali sono queste categorie, perché c'è sia staff permanente ma anche staff a contratto, insomma ci sono varie opzioni per poter andare a lavorare presso le istituzioni europee. Esattamente, allora la prima categoria è quella dei funzionari permanenti, che sono i dipendenti pubblici dell'Unione Europea e sono divisi in categorie, che sono gli amministratori, gli assistenti e gli assistenti segretari. Per accedere ai concorsi per queste diverse categorie ovviamente i titoli di studio variano. Diciamo che per i giovani laureati c'è la possibilità di intraprendere una carriera come amministratore, con un livello di ingresso che corrisponda a un grado intermedio, superando un concorso pubblico strutturato su vari step. Il primo è caratterizzato da una serie di prove che vengono svolte al computer e sono test di tipo psicoattitudinale, di logica linguistica, logica matematica e logica astratta. E ci tengo a sottolineare che questa parte iniziale, questi test, vengono svolti nei vari paesi dell'Unione Europea, quindi una volta che ci si iscrive, si risponde al bando, si sceglie la città in cui svolgere appunto questi primi test selettivi. In Italia, ad esempio, le due città in cui sono stati accreditati due centri per svolgere questo tipo di test sono Roma e Milano. Superata questa prima fase, si accede poi ad una serie di prove scritte e di gruppo. Superate queste, l'ultimo step finale è rappresentato da un colloquio orale davanti ad una commissione di valutazione. Ecco Barbara, poi c'è lo staff, diciamo, temporaneo. Qui com'è la strada? Diciamo tocca una strada simile, nel senso che lo staff temporaneo accede sempre tramite un concorso per quanto riguarda l'ingresso nella parte amministrativa dell'ente. I concorsi non sono annuali, hanno una cadenza più dilazionata e diciamo che sono strutturati in una maniera più snella, quindi indicativamente hanno una serie di prove scritte a computer molto più semplici, più corte, e si arriva a entrare in questa lista di candidati ritenuti idonei, che non ha valore annuale come per i funzionari, ma può durare anche 4-5 anni. Attualmente, che siamo nel 2017, stanno ancora attingendo ad una lista di riserva per personale contrattuale che risale al 2014. Barbara, il motore di tutto questo ha un nome e si chiama EPSO. Se puoi darci innanzitutto il sito internet e poi spiegarci come funziona EPSO. Allora, EPSO, appunto, abbiamo detto che è l'ufficio preposto alla selezione di tutto il personale delle istituzioni europee, quindi non è più come succedeva una decina di anni fa, per cui ogni singola istituzione emetteva i propri bandi e rispondeva ai propri candidati, ma è stato unificato tutto, per cui le liste di riserva che vengono fuori da queste selezioni sono a disposizione di tutte le istituzioni. L'EPSO ha un sito, perché ovviamente tutto ormai si svolge in maniera elettronica, diciamo, attraverso appunto il sito dell'EPSO, che è www.epso.eu. All'interno del sito la prima cosa da fare è crearsi un profilo in cui vengono richiesti dati personali, quindi nome, cognome, luogo, data di nascita, le lingue che si parlano. Si sceglie una prima lingua, che è quella, diciamo, la propria lingua madre, più un'altra lingua che verrà utilizzata poi per una serie di prove successive. E attraverso questo profilo, una volta che vengono banditi appunto le opportunità di assunzione, c'è un link che ti permette di rispondere al bando pubblicato. Indicativamente ogni marzo, il marzo di ogni anno, c'è l'uscita del bando per laureati. Il testimone. La testimone della settimana è una vera globetrotter. Nicole Chiesa, 27 anni, è attualmente dottoranda presso la prestigiosa Università Britannica di Oxford. Come ha fatto ad approdarvi e come costruirvi una carriera assolutamente internazionale, Brexit permettendo, sono al centro dell'intervista con lei. Buon pomeriggio, Nicole. Buon pomeriggio. Allora, la tua storia professionale, che ha trovato per il momento uno sbocco ad Oxford in vista di traguardi ulteriori, è stata preceduta da una vasta esperienza in campo internazionale che ti ha portato a viaggiare per il mondo. Ci riassumi in un minuto, se ce la fai, il tuo lungo percorso? Sì, allora, sono cresciuta in Valsugana e a 17 anni ho vinto una borsa di studio per un collegio in Irlanda. Dopo questa maturità mi sono iscritta all'Università di Scienze Internazionali Diplomatica Forlì e durante l'università ho avuto l'opportunità di studiare in Francia, in Portogallo e in Argentina. Prima di terminare gli studi sono tornata in Italia e per un breve periodo ho effettuato uno stage al Corriere della Sera nella sezione di Trento, e questa esperienza mi ha aperto le porte del mondo e soprattutto mi ha permesso di venire accettata a un master in economia e relazioni internazionali alla Johns Hopkins University di Washington DC. In seguito, dopo la laurea, ho lavorato per il Fondo Ambientale delle Nazioni Unite, prima a Ginevra e poi in Sudafrica, e poi sono sempre sullo stesso progetto, sono passata alla Banca Mondiale e al Congresso Americano. Ho sempre lavorato intensamente su delle problematiche ambientali. Questo, Nicole, poi ti ha portato ad Oxford. Di cosa ti occupi esattamente, esatto, ora, come dottoranda? Oggi lavoro con Gordon Clark, che è il professore più grande esperto nel Corporate Environmental Management. Il mio team di ricerca si trova alla Oxford Smith School per le imprese e per l'ambiente, e il mio lavoro analizza 5 anni di dati delle imprese. Partiamo però dall'inizio, nel percorso di consigli pratici che ti chiedo di fornire ai nostri ascoltatori. A 16 anni sei andata, lo hai detto tu stessa, a concludere i tuoi studi di scuola superiore in un collegio irlandese. Quale opportunità hai utilizzato? Allora, nel mio caso ho utilizzato il Punto Europa della provincia autonoma di Trento. Come gli altri punti Europa, in tutta Italia offre delle svariate possibilità per le persone che vogliono uscire dai confini, diciamo, per conoscere il resto dell'Europa, per imparare una lingua, per fare un'esperienza professionale oppure anche di volontariato. Nel mio caso lo scambio bilaterale mi ha portato in Irlanda, ma ci sono un sacco di altri Quindi, paesi in Europa. Primo consiglio, utilizzate questi punti di informazione perché potrebbero essere miniere di informazioni. Altro fattore molto importante che ha contribuito alla tua internazionalizzazione persone sono stati periodi all'estero in Francia, Portogallo, Argentina. A chi pensa che sia difficile poter partire durante gli studi universitari, quale consiglio pratico dai per fare esperienze fuori e non rischiare di perdere mesi potenzialmente utili in Italia? Penso che fare un'esperienza in un altro luogo del mondo non sia mai tempo perso, diciamo. L'arricchimento personale e soprattutto la crescita professionale, cioè proprio come persona, come essere umano, che acquisisci durante questo tipo di percorsi, a lungo termine ha molto molto più valore e peso di qualsiasi esame, diciamo, dato al primo appello. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la storia e i preziosi consigli di Nicole Chiesa, 27enne dottoranda ambientale presso la prestigiosa Università Britannica di Oxford. Dalle organizzazioni internazionali alla ricerca, la storia di Nicole ne contiene tante altre in un interessante gioco di scatole cinesi, e anche le sue dritte sono a 360 gradi. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Una volta conclusa l'università, tu hai lavorato per diverse organizzazioni internazionali, lo abbiamo ascoltato. Questo è un tema che affrontiamo spesso. Come riuscire a entrare in queste istituzioni? Quali i migliori percorsi che si possono seguire? Allora, prima di tutto bisogna fare una scelta universitaria molto ragionata, perché l'università ti può aprire tante porte. Quello che io ho fatto è partecipare a un sacco di seminari specifici sui temi miei di interesse e ho preso contatto con i professori o i relatori ospiti. Queste persone sono esperte per una ragione e molto spesso sono, diciamo, felici di condividere individualmente dei pareri e ti connettono con il mondo del lavoro. Io ho fatto un sacco di ricerca su quali progetti mi sarebbero interessati e ho utilizzato sia il network della mia università per prendere contatti con il team, e soprattutto anche ho dato priorità ai miei connazionali, perché è più facile instaurare un rapporto e dimostrare le proprie capacità quando si parla con altri italiani. Quindi essere svegli, proattivi e utilizzare i network, quelli buoni ovviamente, ci sono anche quelli meno buoni e noi italiani lo sappiamo bene. Arriviamo al punto, Nicole, come si entra ad Oxford? Credo che la maggior parte delle persone che non entrano ad Oxford è perché non ci provano neanche, perché c'è una concezione un po' inesatta, diciamo, dello studente ideale ad Oxford. Essere brillanti e pensare velocemente non sono le uniche cose rilevanti. Credo che la prima cosa sia essere molto ambiziosi, ma in senso positivo, diciamo, non l'arroganza che viene subito scovata. Quali sono i canali da seguire? Per entrare ad Oxford, sì. Dipende se si vuole fare un dottorato o si vuole fare un master o comunque una scuola, diciamo, triennale. Per fare una scelta, diciamo, di studio, non di ricerca, bisogna applicare per il sito e ci sono dei test da fare, sia di lingua che di attitudine, e poi ci vuole un'intervista, cioè se si passano i primi due test si viene chiamati a fare un colloquio. Se invece si vuole fare un dottorato, la scelta è molto diversa, perché fare un dottorato si sceglie una persona con cui lavorare e quindi bisogna venire all'università, incontrare questo potenziale professore e instaurare un rapporto. Un ruolo importante l'hanno giocato per te anche i network di italiani all'estero, lo hai accennato parecchio in questo racconto, e nel tuo caso i trentini nel mondo. Perché è importante entrare in contatto con queste realtà quando si è fuori dal proprio paese? In cosa concretamente possono essere utili? La parte, diciamo, difficile del partire sono le prime settimane quando si arriva, perché sono difficili, non conosci nessuno, non sai come funziona la città, e per me il network dei trentini del mondo è stato fondamentale. Devo ringraziare la lungimiranza della mia mamma che li ha contattati e loro sono subito stati super gentili, mi hanno aiutato quando sono arrivata, mi sono venuti a prendermi all'aeroporto, mi hanno aiutata in cose pratiche proprio come l'assicurazione sanitaria, aprire un conto corrente, queste cose molto basi che però una persona che è lì e che è lì da tempo riesce davvero a essere un punto di riferimento importante. Quindi ecco, il consiglio è: cercate il vostro network, spesso ce ne sono di regionali, chi fatto meno bene, chi fatto meglio, però è sicuramente un primo punto di appoggio. Infine, trovandoti tu in Gran Bretagna, non possiamo non parlare di Brexit e della minaccia che pone per molti di voi. Consiglieresti in questi tempi così incerti un dottorato oltre Manica, e se no, a quali altri paesi guardare? Perché l'Università di Oxford sempre avuto un carattere molto internazionale, ha sempre fatto sentire benvenuti gli studenti anche prima dell'Unione Europea. Quindi anche se i rapporti, diciamo, politici cambieranno, l'università sta collaborando con tutte le altre università inglesi per rafforzare il messaggio di inclusione e soprattutto per proteggere i diritti degli studenti. Gli studenti si sentiranno sempre benvenuti a queste università. Quello che potrà cambiare saranno i livelli delle tasse universitarie. E qui, però, non è una cosa da poco, chiaramente. Però, insomma, non è una cosa da poco, ma se si pensa a un altro posto dove andare, l'altro posto sarebbero gli Stati Uniti, comunque credo che risulterebbe più economico l'Inghilterra. Insomma, speriamo bene, nel 2019 capiremo meglio. Infine, la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a lavorare all'estero? La cosa principale, secondo me, è essere molto organizzati, cioè capire esattamente quello che si vuole fare e il posto dove si va, perché tante volte le persone hanno delle aspettative molto alte di quello che può succedere, però la realtà è molto diversa e è facile scoraggiarsi. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna questa settimana per il primo appuntamento del mese di ottobre Alessio Romeo, CEO e fondatore di Face for Job. Con lui andiamo alla scoperta delle offerte più calde del momento nel mondo. Questa settimana ci concentriamo su una nazione che ha avuto un po' di dibattiti in queste ultime due settimane ed è proprio la Spagna, che dall'altra parte invece risulta molto attiva sul fronte delle opportunità di lavoro. Le maggiori offerte si concentrano fondamentalmente su Barcellona, la città ribelle della Catalogna, ma anche su Madrid, Valencia, Isole Baleari, Andalusia. Abbiamo dei luoghi molto caldi in termini di offerte. Le figure più ricercate sono localizzate su divisioni IT, Information Technology e Digital, ma seguite anche opportunità in marketing, retail, commerciale e non laureati. Le più gettonate sono quindi più softwareisti, programmatori, ma ecco, la parte di ingegnere, economista e risorse umane vedono un leggero rallentamento in questo periodo. Quindi sono i software developer, web designer le figure più ricercate, seguite poi da media manager, customer service, sales account, e-commerce e neolaureati in materie scientifiche. Ora vediamo quali sono queste aziende che cercano queste figure specifiche. Partiamo subito con un portale molto noto, una nota agenzia di viaggio online che è proprio sede in Catalogna, a Barcellona, che è eDreams, che cerca ben 33 figure tra IT, digital, marketing e non laureati, e anche qualcuna di queste anche a Madrid, oltre che a Barcellona nella sede principale. Poi abbiamo un'altra sempre società online operante nel settore dell'immobiliare, che è l'Idealista SA, che cerca 14 figure sempre IT, digital e commerciale, principalmente a Madrid, ma anche in Catalogna e Andalusia. Poi abbiamo un noto marco produttore di abbigliamenti e calzature, sempre con sede a Barcellona, che è la Desigual, che cerca ben 12 figure in ambito retail, ma anche IT, e con alcune di queste nelle isole Baleari. Gruppo Altran Technologies, altra multinazionale francese, operante in vari settori dell'ingegneria, cerca 11 figure IT, da programmatore a webmaster a informatico junior, tutti a Barcellona, e le ultime due abbiamo Deport Village, un negozio di sport online con ben 300 marchi sportivi gestiti, cerca 10 figure tra digital, IT e retail. Parliamo quindi di SEM e SEO specialist, media manager, programmatori, e tutti questi a Barcellona. Chiudiamo con una società che, diciamo, sviluppa software di realtà virtuale in ambito biomedicale, che è la Chrysalix, e anche questa cerca 10 figure a Barcellona da impiegare nel settore commerciale e nell'IT. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.faceforjob.com. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi ci trasferiamo armi e bagagli in Austria, una possibile alternativa per chi conosce bene la lingua tedesca rispetto alle più quotate Germania e Svizzera? Forse sì, o quantomeno meglio non escluderla a priori, come ci spiega Angela Gullo, creatrice del blog Vienna e dintorni, che racconta proprio la vita nella capitale austriaca, una guida online utile per chi pensa a un approdo oltre le Alpi. Vienna e dintorni blog nasce l'anno scorso, quando ho notato sempre più spesso che Vienna veniva ritratta come una città noiosa e austera, vivendoci da ormai 20 anni. anni e non trovandola per niente noiosa ed austera, ho pensato bene di raccontare, tra virgolette, la mia Vienna. Quali informazioni si possono trovare, pratiche, sul tuo blog? Consiglio luoghi insoliti ma comunque interessanti. Curo anche una rubrica settimanale sugli eventi che ogni fine settimana hanno luogo a Vienna e nei suoi dintorni. C'è però anche una fronte di chi viene a Vienna per trovare opportunità, lavorare, studiare. Hai visto in questi 20 anni aumentare il numero di giovani italiani? Assolutamente, assolutamente, e soprattutto negli ultimi 10 anni una crescita enorme, non solo di giovani ma anche di famiglie intere. Dove cercano e dove trovano anche opportunità, soprattutto se sono qualificati, se insomma hanno una laurea alle spalle? Qui c'è bisogno di fare una differenza, perché premettendo che la crisi c'è anche in Austria, già da qualche anno si registra un aumento dei disoccupati. Bisogna dire che stranamente però aumenta anche l'occupazione e le aziende puntano sempre più sui giovani. Per mia esperienza, Vienna in particolare è in crescita il numero delle start-up e quindi spesso vengono richieste figure come programmatori di apps oppure personale per il customer care internazionale. Possibilità ci sono anche spesso nel settore turistico alberghiero, anche se spesso sono lavori stagionali. La differenza rispetto ad altri settori però è che questi lavori sono generalmente disponibili fuori dalle grandi città. Naturalmente aumentano le possibilità di trovare lavoro se si sa bene il tedesco e in aggiunta forse anche meglio l'inglese. Quello della lingua è un requisito importante, ci sono altri requisiti per poter lavorare? C'è sempre maggiore richiesta di personale specializzato. È uguale quale settore, da quello informatico a quello sanitario, bisogna essere naturalmente sapere il tedesco ed altre lingue, ma soprattutto essere molto specializzati. Perché Vienna e magari non Berlino, o più in generale, perché l'Austria e non la Germania? Perché Vienna è comunque rimasta, diciamo, una città vivibile. Per maggiori informazioni potete cliccare su viennaedintorni.com. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. E potete pure contribuire al nostro blog che si chiama Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere, testimonianze personali? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte, insomma, della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.